Salva Danaio di Deborah Rosciani. Un salvadanaio speciale per questo 25 aprile. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani. Oggi parliamo di libri e parliamo di un fenomeno che in Italia ha avuto uno sviluppo enorme negli ultimi anni. Parliamo di low cost. Se il low cost fosse un'unica azienda, sarebbe la seconda in Italia dopo l'ENI e prima di Fiat, Finmeccanica e Assicurazioni Generali, e con un tasso di crescita ben più alto di quello che queste multinazionali possono anche solo pensare o sperare. In Italia l'economia del low cost vale qualcosa come 62 miliardi di euro, corrispondenti all'8% del prodotto interno lordo, con un tasso di crescita annuale del 6%. E di fronte a questi numeri non è difficile sostenere che il paese intero sta diventando low cost, un fenomeno che ne abbiamo parlato anche altre volte a Salvadanaio e al centro di analisi di ogni genere, e ora viene tutto condensato nel libro in distribuzione da poche settimane, Italia low cost, viaggio in un paese che tenta di resistere alla crisi, storie, segreti e indirizzi di chi ce la fa. Gli autori sono Filippo Astone e Rossana Lacala, che abbiamo invitato oggi a Salvadanaio. Il libro è edito da Liberti Editore. Allora io intanto li saluto. Filippo Astone, intanto ciao. Ciao, buongiorno. Collega del settimanale Il Mondo, ma per la verità io ritengo che sia una delle persone più prolifiche che abbia mai conosciuto a giudicare dai libri dati alla stampa negli ultimi tempi. Poi Rossana Lacala invece si occupa di tutt'altro, non di economia, perché lavora a Novella 2000. Ciao Rossana. Io, buongiorno, sono una collaboratrice di Novella 2000, sono stata in redazione per anni, poi ho scelto la libertà. E attualmente collaboro con loro, ma faccio anche dell'altro. Nel mio passato c'era Dove, giornali di turismo, insomma ho fatto un sacco di cose. Hai accumulato un bel po' di esperienza per arrivare tutto ad aiutare Filippo Astone nella ricostruzione del fenomeno low cost italiano. Certo. Poi ci racconterete anche come vi siete distribuiti i compiti, perché anche quello è un aspetto interessante. Però per conoscere anche un po' tutta l'economia che c'è intorno al low cost, abbiamo chiamato un'altra persona che ci ha aiutato anche in altre circostanze appunto a capire bene di che cosa stiamo parlando, Andrea Baracco, vicepresidente di Asso Low Cost, perché esiste anche un'organizzazione rappresentativa di questo fenomeno economico italiano, oltre che direttore della comunicazione di Renault Italia. Andrea, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, ci sono tante cose da raccontare, tante curiosità. Io la prima domanda, Filippo Astone, la faccio a te, perché tu hai presentato tanti libri, l'ho raccontato anche prima, e come ben sai, quando si presentano poi ufficialmente c'è sempre la prima domanda dalla quale si parte, che è quella più scontata, più ovvia, è come nasce questo libro. Non esisteva ancora forse una summa completa di quello che è il low cost italiano? Ma questo libro è diviso in due parti. La prima parte è un'inchiesta economica su il low cost come settore, come nasce, come è possibile, quali sono le aziende, quali sono le strategie di sviluppo e quali possibilità di crescita può fornire al Made in Italy. La seconda parte, che è la più corposa, è invece una guida pratica che investe tutti gli ambiti della vita che possono essere ripensati in modo low cost. Così abbiamo l'auto, l'abitare, inteso come comprar casa, ma anche come arredare la propria casa, la mente, inteso come coltivare l'orto, ma anche la cultura, la finanza, assicurazioni e banche low cost, e la salute, dove la cosa più interessante sono i farmaci generici, che sono il vero low cost. La prima parte nasce da un'esigenza che trova la radice nei precedenti libri. Io ho descritto in due libri che ho fatto lo stato di crisi del capitalismo italiano e l'Italia delle imprese che non crescono. Ora, mi incuriosiva dal punto di vista intellettuale trovare possibili strade di crescita. Questo è un settore in forte espansione e investe ambiti che sono tipici del Made in Italy, le famose 3F, Food, Fashion and Furniture, che però sono tutti coperti da aziende straniere. Allora, anche con interviste a esperti della Bocconi e con mie personali considerazioni, si è chiesti se alcune aziende italiane potevano trovare una risposta a questa cosa. Se le risposte sono state trovate, poi magari ce lo racconti alla fine. Ecco, invece la seconda parte nasce dall'esperienza comune della ottima Rossana Lacala, che, avendo qualche anno in più di me, io considero la mia maestra di giornalismo e mia, che nasce dalla voglia di spendere di meno pur continuando ad avere la stessa dose di piacere, la stessa dose di gusto della vita. Cioè un concetto che noi ci siamo portati dietro da tanti anni, che era: non faccio delle rinunce, ma spendo in modo più intelligente e quindi riesco a fare le stesse cose. Per esempio nel settore della casa, che è quello che ho fatto io, che ho comprato la mia casa a un'asta e sono riuscito a pagarla anche la metà del prezzo normale che viene proposto. Che sarebbe stato quello di mercato, insomma, a livelli attuali. A livelli delle agenzie, dell'agenzia di terra. O i viaggi low cost, che è una cosa che io ho praticato come viaggiatore, lei ha praticato come giornalista. Devo dire che poi le due parti si sono fuse, perché nella prima parte, che è quella dove c'è l'inchiesta economica, ma anche l'analisi culturale di dove nasce questa filosofia e questo nuovo approccio alla vita, è il frutto di un lunghissimo scambio intellettuale che c'è stato fra noi due. Quindi perché la prima parte, che inizia da lontano, inizia da un orto della Casa Bianca, e mi ha bruciato la prima domanda, però insomma raccontiamo Obama, questo via, esatto, è il frutto di una riflessione che avevamo fatto insieme. Ecco, vorrei finire dicendo che il low cost si chiama, purtroppo in Italia c'è poca cultura economica, per cui si confonde, si tende a considerare costo e prezzo come sinonimo, e low cost non è low price. E quindi quello che noi abbiamo definito come low cost nasce dall'ottimizzazione dei processi che provocano costi inferiori, di cui una parte si riflette nel prezzo al consumo praticato al consumatore. E questo è il caso di Dacia. E infatti, guarda, ti interrompo perché proprio questa parte è la prima che abbiamo tratto come lettura dal vostro libro. Sentiamola. Allora, questa parte è proprio quella che ci spiega che cosa significa low cost. Di che cosa parliamo esattamente quando usiamo la parola low cost? E come si distingue dal mero basso prezzo? Il vero low cost nasce dalla strategia aziendale. E per ridurre i prezzi si serve della massa critica, della filiera corta, dell'abilità dei manager nell'inventare nuovi modelli di business e di quella degli ingegneri nel progettare meglio. Si pensi a IKEA, caposcuola del low cost insieme a Ryanair. IKEA riesce a tenere basso il prezzo dei mobili non solo per le economie di scala derivanti dalle sue grandi dimensioni, ma anche perché la filiera produttivo-distributiva non prevede costosi magazzini intermedi. Alla base del low cost ci sono sempre strategie industriali vincenti, supportate da idee innovative e spesso dall'uso del web. Su internet si basa la strategia low cost degli operatori della finanza, come ING Direct, delle linee aeree, come Ryanair e EasyJet, di Yux, che vende online grandi marche della moda a prezzi più che dimezzati. Una definizione efficace del low cost è quella che si basa su 5 elementi: basso prezzo, qualità uguale o superiore a quella della concorrenza, innovazione, impegno a rispettare almeno gli stessi valori sociali ed etici della concorrenza e un quinto elemento distintivo che varia a seconda della marca. Per IKEA, il quinto elemento è il democratic design, cioè l'estrema cura nella progettazione di oggetti d'arredo creativi. Per Dacia è una spaziosità interna superiore alla media. Per Ryanair è la puntualità. Andrea Baracco, vicepresidente di Asso Low Cost, oltre che, come abbiamo ricordato prima, direttore della comunicazione di Renault Italia. In casa Renault, che rivoluzione si è dovuta fare per arrivare a produrre Dacia, in sostanza? Come una grande azienda automobilistica ha dovuto e ha potuto sposare la filosofia del low cost? Beh, innanzitutto noi dobbiamo pensare che chi decide tutto è il cliente, quindi il cliente si stava trasformando, stava nascendo una nuova dimensione del ceto medio. Noi siamo dei costruttori generalisti, quindi il nostro target di riferimento è sicuramente quello che può essere il ceto medio oggi, e sì, questo ceto si stava trasformando per n fattori. E quindi dovevamo trovare il modo di intercettarlo attraverso una gamma di prodotti che fosse concepita in un modo diverso. All'interno delle nostre marche esisteva già un marchio che era Dacia, che nasceva originariamente per la conquista dei mercati emergenti, ma si è visto che determinate caratteristiche che sono state evocate anche nella lettura precedente, quindi la spaziosità, ad esempio, una certa semplicità dal punto di vista dell'elettronica, ad esempio, e anche un altro fattore, quello di avere anche una scelta tutto sommato contenuta di motori o di colori di carrozzeria, potevano essere vincenti su un mercato che stava cambiando. L'abbiamo fatto, abbiamo quindi preso questi veicoli, li abbiamo anche distribuiti tramite la nostra rete distributiva in Europa occidentale, e vediamo che oggi il marchio Dacia è il quarto marchio in Francia e in Italia è stabilmente nei primi 20 e oggi ha una quota dell'1,2%. Quindi direi che siamo riusciti effettivamente a trovare una chiave interessante e vincente per certi aspetti a fronte di un mercato che invece, come quello dell'auto, è piuttosto complesso. A solo costi invece quante aziende rappresenta oggi? So che non è neanche esattamente semplice potersi iscrivere a questa associazione. Ma a solo costo ha fatto del, come dire, un po' della scientificità la barriera d'ingresso. In effetti quello che si evocava prima, ovvero sia il fatto che, come diceva Filippo Astone, sia un processo che riguarda tutto quello che è la filiera di realizzazione del manufatto, è un elemento fondamentale, ovvero sia per noi di A Solo Costa arrivare ad avere un prezzo competitivo rispetto alla media del settore merceologico è un elemento vincente, ma deve essere un elemento che trova ragione nelle ottimizzazioni che si fanno lungo la filiera produttiva e non certo in un'operazione semplice di dumping sul prezzo e quindi di, come dire, sconto che viene poi fatto al consumatore finale. No, da questo punto di vista ci appoggiamo su ricerche e su valutazioni che vengono fatte da istituti esterni a noi per effettivamente poter permettere alle società, alle aziende che lo desiderano, di accedervi. Mm-hmm. Rossana Lacala, oltre all'esercizio intellettuale che avete fatto tu e Filippo Astone, del quale Filippo ci raccontava prima, poi concretamente come vi siete suddivisi il lavoro? Vi siete suddivisi anche i settori intorno ai quali indagare? C'è qualche come dire, aspetto del fenomeno che avete ricostruito che ti ha interessato particolarmente, che ti ha sorpreso anche particolarmente? Ma guarda, abbiamo suddiviso gli ambiti, questo ab inizio. Quello squisitamente economico seguito da Filippo, io con il mio elenco di capitoli di guida, ma inevitabilmente le cose si sono mescolate, soprattutto perché poi si sono scontrati due mondi, quello di un uomo che di soldi se ne intende per lavoro e per passione, e quella di una donna che, quasi come tutte le donne, con il denaro come dire, fa fatica, no? Stentano a capire. Beh, io da questo libro per esempio ho imparato come funziona per cercarsi una buona assicurazione, come ci si muove per imparare a usare bene un conto corrente, ho imparato come si può acquistare una casa. E lui probabilmente ha imparato a farsi l'orto a casa. L'orto mai non è un... Che cosa ha imparato Filippo dall'esperienza di Rossana? O dalle testimonianze ed esperienze raccolte per il libro da Rossana? Beh, ho imparato a fondere il fatto culturale e psicologico con il fatto economico, e questo per me è stato un significativo passo avanti anche di maturazione culturale e personale. Poi certo i due ambiti si sono fusi, per esempio la parte sull'abbigliamento è stata scritta da Rossana, però la intervista alla Poelkan che c'è alla fine l'ho fatta io, e dirai che cosa c'entra la Poelkan con il low cost, lui che ha questa immagine Italian Independent. Questa immagine invece di lusso, di Ferrari gialla con la quale va in giro. C'entra perché l'APO usa moltissimi prodotti low cost, perché i veri ricchi, quelli come lui, non è che hanno bisogno degli status symbol, usano le cose che gli servono. Questo è un capitolo molto interessante del libro, infatti, che comunque anche la classe sociale è teoricamente molto più distante da questo mondo. No, la classe sociale esiste, ma non ha bisogno di avere il patacone di orologio per affermarsi. Mm-hmm. Magari uno va in Ferrari e poi, come fa lui, si compra le camicie nel mercatino dell'usato a New York. O prende un volo EasyJet senza alcun problema. Oppure usa gli Swatch, lui usa continuamente gli Swatch. Per cui, e anche per far vedere che il low cost è una cosa da persone intelligenti e non una cosa da poveri, per cui non c'è chi in realtà lo vede come un povero, come una cosa da povero, è in realtà un parvenu. Perché il passaggio culturale è da value for money, valore per il prezzo, a value for me, per cui le cose hanno un valore che è il valore per te. E dentro questo valore c'è anche il tempo e la ricerca che hai fatto per trovarle. Infatti noi parliamo a lungo del mondo dei mercatini, ne parla anche Ginevra Elkan nella sua intervista, la quale è anche un'appassionata d'arte, e ti dice che ha comprato la sua cucina al Balloon di Torino, che comporta una ricerca, ma anche il mondo del low cost comporta una ricerca, perché tu su internet devi fare fatica per trovare le informazioni. Se vai da Zara, dove c'è un sacco di roba che magari è anche inutile, per trovare il capo che va bene per te, che abbini con altre cose, devi starci più tempo che in un negozio high price. E quindi c'è tutto questo concetto della ricerca. Certo, Rossana, volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo... Poi ho anche un'altra scheda sui tre settori più sconquassati dall'arrivo dello cost italiano. Sì. Volevo dire che per noi entrare in questo mondo è stato anche scoprire il bello dell'accesso. Quanto possa essere gradevole, piacevole scoprire prodotti, luoghi, stili di vita, a basso prezzo, a basso costo, no? Com'è che dice? Se no lui mi picchia, a basso costo. Non è low price, è a basso costo. Ecco, questa ricerca è stata la parte più, diciamo, eccitante, sexy, dello scrivere questo libro. Ottimo, benissimo. Intanto, a proposito di sexy, sentiamo un po' quali sono stati i tre settori più sconquassati dall'arrivo dello cost in Italia. La rivoluzione low cost ha dato uno scossone soprattutto a banche e assicurazioni, turismo e industria automobilistica. In campo finanziario, low cost è sinonimo di internet. Banche e assicurazioni online riescono a proporre condizioni competitive grazie alla tecnologia e a costi del personale notevolmente inferiori rispetto ai sistemi tradizionali. Se i dipendenti di un istituto tradizionale assorbono circa il 60% dei costi operativi, in una banca online questa percentuale scende a meno del 10%. Lo stesso vale per le assicurazioni, che grazie alla rete tengono direttamente i rapporti con il cliente, senza passare attraverso il costoso canale delle agenzie. Inoltre, la personalizzazione delle tariffe resa possibile dal web si traduce, per la maggior parte dei clienti, in significativi risparmi, perché l'utilizzo di numerosi parametri consente una valutazione del rischio più precisa. Come nella finanza, anche nel settore viaggi e turismo, low cost è sinonimo di internet. Fino a 5-6 anni fa, i clienti si rivolgevano ancora alle agenzie per prenotare i voli, mentre ora gran parte della bigliettazione si è spostata su internet. Nel turismo, organizzarsi da soli comprando biglietti e stanze d'albergo sul web sta diventando la normalità. Se nei viaggi e nella finanza la rivoluzione del low cost ha già fatto sentire i suoi effetti, il mondo automotive vive i primi segnali di uno sconquasso in arrivo. Il low cost automobilistico, per ora presidiato dalla sola Dacia del gruppo Renault, vale appena lo 0,97% delle immatricolazioni ed è ancora poco visibile. Ma diversi indicatori ci mostrano che diventerà importante. Andrea Baracco, c'è però intorno al fenomeno ancora a volte, anche se si sta tentando di superare, un po' di pregiudizio, perché faccio riferimento ad esempio al settore assicurativo. Molti consumatori ritengono che per esempio farsi l'assicurazione online sia ancora un modo per sottoscrivere un'assicurazione in maniera non del tutto sicura, non siano più le garanzie del rapporto diretto con l'agente, eccetera, mentre in altri settori appunto l'avvento dello cost è stato veramente un traino concorrenziale enorme, per altri invece c'è ancora un po' più di difficoltà. A me viene ancora in mente la faccia di molte amiche che ho, alle quali racconto che spesso compro per casa mia dei mobili IKEA e mi guardano un po' come per dire: ma insomma, vabbè, sì, ti sei andata a risparmio. È così o no, insomma? Ma direi che questo libro, tra l'altro, esprime bene un cambiamento culturale che c'è in atto. Noi, ad esempio, le assicurazioni online sono quasi tutte iscritte ad a solo cost, e quindi abbiamo veramente un polso della situazione. È logico che dobbiamo scardinare, che si sta scardinando, una tradizione, se vogliamo, un'abitudine, una consuetudine di 50, 60, forse addirittura 100 anni, no? Per cui si andava dall'assicuratore, così come magari si andava dal mobilificio, eccetera. E oggi sta cambiando tutto, internet è stata una vera e propria rivoluzione, quindi ci sono state delle aziende che hanno capito il valore di questo e che hanno incontrato dei consumatori pronti per questo. Non dimentichiamoci che logicamente oggi comunque il consumatore più avveduto è quello che fa dei confronti, e oggi grazie a internet non c'è più la necessità di andare a fare il door to door per scoprire l'assicurazione migliore o i mobili migliori o chissà quale altra categoria merceologica, ma con qualche click si riesce abbastanza velocemente a farlo. Quindi certo, in Assolocosta sono rappresentati tutti i settori merceologici o ci sono dei settori che non sono ancora stati positivamente contaminati dalla filosofia low cost, Andrea? No, guarda, noi abbiamo una grande speranza, ma che è molto difficile oggi da poter andare a risolvere. E manca sicuramente un settore che è quello dell'alimentare, quello della grande distribuzione, perché purtroppo, diciamo, all'interno di questo settore, dato che per noi low cost è abbinato comunque ad una qualità elevata ed alta, risulta sempre difficile o riuscire ad andare a separare quella che è la marca di una catena dall'interno di una catena di distribuzione dove però ci sono tutti i marchi rappresentati, o altrimenti qualche approccio che abbiamo avuto non ci garantiva quel livello di qualità delle merci che venivano vendute, che invece a noi, come dire, sta a cuore. Filippo Astone, che è uno degli autori, 62 miliardi di euro di che cosa? Di fatturato, che cosa ricostruisce questa cifra? Sommando il fatturato di banche, assicurazioni, linee aeree di alcune catene della grande distribuzione, per esempio nel campo del bricolage, e di tutte le marche commerciali che si riconoscono nel concetto di low cost. Devo però precisare che il nostro libro non copre solo quell'ambito. Noi abbiamo voluto andare oltre e parlare anche di diverse cose che non hanno niente a che fare con le marche, perché ad esempio dove parliamo di comprare casa o dove parliamo di farsi l'orto, di marche non ce ne sono. E abbiamo anche, sottoscrivendo alcuni aspetti di questa rivoluzione del low cost, abbiamo anche cercato di mantenere un certo senso critico e una certa distanza, evidenziando anche magari quelli che sono dei punti critici di questa industria, perché non è che si voleva fare lo spot a nessuno. Certo. Venendo invece... No, per esempio avete anche ricostruito, è una cosa che è stata riportata ampiamente anche da tutti quanti i giornali, le difficoltà nel rapporto di lavoro che per esempio Ryanair ha con i suoi dipendenti, tanto per citare appunto un aspetto critico. I dipendenti di Ryanair sono assunti dall'Irlanda e quindi non pagano contributi qui, e non so come sia a livello fiscale, ma perché l'Irlanda, avendo un cuneo fiscale molto più basso, permette loro di avere stipendi pari o forse leggermente superiori a quelli che ci sono qua, ma con un costo del lavoro per il datore di lavoro che è molto più basso. Mm-hmm. E comunque, a parte il problema dello stipendio, non è che il trattamento di Ryanair verso i dipendenti sia ottimale. Ci sono state varie proteste, vari casi di mobbing, vari problemi di sfruttamento. Una cosa volevo dire a proposito di Dacia: molti mi chiedono, quando leggono il libro, ma come fanno a fare le vetture, a farle costare così poco? Mm-hmm. Poi mi vado a schiantare, ma no, perché ci sono una serie di accorgimenti che sono, ad esempio, che un veicolo di marca premium tipo la Renault o tipo la Peugeot resta nei concessionari per 2 anni, poi per mantenere alte le vendite sono costretti a fare la versione successiva. Invece i modelli delle Dacia sono sempre gli stessi anche da 6-7 anni. La Sandero, che è un loro cavallo di battaglia, credo che... 3 anni? 3 anni, suggerisce Andrea Baracco, appunto direttore della comunicazione di Renault. 3 anni. Poi utilizzano piattaforme e componenti che sono già ammortizzati dalle precedenti vetture di Renault, per cui il cambio che adesso viene montato sulle Dacia è quello che c'era per le Clio della generazione precedente. Ma di questo chi le usa non se ne accorge. Non se ne accorge, certo, perché comunque gli standard di sicurezza, Andrea Baracco, ci mancherebbe altro che vengano messi in discussione. Beh, assolutamente. Questo è assolutamente, per tra l'altro, per il marchio Renault è un fiore all'occhiello la sicurezza. Siamo stati i primi a raggiungere con dei modelli le 5 stelle Euro NCAP. Oggi abbiamo la più ampia gamma di modelli che hanno le 5 stelle EuronCap, per quindi cosa la sono filosofia... le 5 stelle EuronCap? Beh, 5 stelle EuronCap sono una classificazione, diciamo così, che viene fatta sulla base di una serie di test che vengono effettuati da una società che si chiama appunto EuronCap e che è una società che, come dire, certifica il livello di sicurezza dei veicoli. Quindi Dacia, da questo punto di vista, essendo costola a dire no, non può essere sicuramente far passare in secondo piano l'aspetto della sicurezza. Vorrei passare in un salto abbastanza consistente dal mondo delle automobili a quello del cibo, perché c'è anche questo capitolo nel libro, appunto, sul low cost. Sentiamo un po' come viene trattato in questa breve scheda che ne abbiamo tratto. Il cibo scaduto è sempre da buttare? L'interrogativo non è sbagliato, perché dall'equivoco sulla scadenza nascono una buona parte dei nostri sprechi alimentari, che ormai toccano livelli impressionanti. Circa il 20% della spesa degli italiani finisce nella spazzatura. In realtà, il sistema delle scadenze dei prodotti alimentari, una normativa di fonte europea, non è semplice né trasparente. Pochi sanno che esiste una differenza di fondo tra due tipi di scadenza: una perentoria, da consumarsi entro, riservata al cibo fresco, e l'altra da consumarsi preferibilmente entro, che invece indica solo un termine minimo di conservazione. Il rebus, tradotto nei fatti, significa che i cibi per i quali la scadenza è preferibilmente entro non diventano pericolosi a quella data, ma semplicemente perdono alcune proprietà organolettiche. Si tratta insomma di un'indicazione di qualità, non di sicurezza. Lo yogurt si può tranquillamente mangiare anche 10-15 giorni dopo la data di scadenza stampata sulla confezione. Al massimo contiene meno fermenti lattici. Mentre i consumatori sono informati poco e male, le aziende conoscono molto bene i meccanismi e le regole della sicurezza alimentare, tanto che attorno al cibo scaduto è nata una nuova attività commerciale e nuove aziende che fanno affari d'oro. È il caso dell'inglese Approved Food, letteralmente cibo approvato, che su internet vende di tutto e, da quando è esplosa la crisi, ha visto decuplicare il suo fatturato. La società consegna su ordinazione e entro le 24 ore qualsiasi tipo di prodotto alimentare scaduto, ma perfettamente commestibile. In Italia abbiamo anche l'esperienza del Last Minute Market, abbiamo tante cose da raccontare. Rossana Lacala, questo tema del cibo non buttare lo abbiamo tratto dal capitolo 3, spesa low cost ma di elevata qualità, dove voi appunto spiegate molto bene, ma le famiglie italiane lo sanno perfettamente, che dispense e frigoriferi mettono a repentaglio il budget familiare, eppure dribblare lo scaffale selvaggio si può come? Ah, si può in un sacco di modi. Tanto, per ricollegarmi a quel che diceva il dottor Baracco, nella grande distribuzione. Anche nella grande distribuzione si può, non in tutte. Uno dei modi per dribblare gli eccessi di costi legati alla spesa quotidiana è quella di andare a guardare i prodotti che hanno l'etichetta, le label, si chiamano, sì. Filippo, le label delle grandi distribuzioni. Ma anche lì bisogna stare molto attenti, guardare bene le etichette, perché una delle cose che abbiamo scoperto scrivendo questo libro è che l'etichetta è tutto. Nell'etichetta si scopre vita, virtù e miracoli del cibo. E secondo me nessuno di noi la legge. E nessuno di noi la legge. Men che meno, ecco, una cosa che gli italiani non leggono è quanto costa al chilo la cosa che acquista. L'esempio più tipico, le insalate in busta. Gli italiani sono dei consumatori formidabili, francamente non ricordo ora le percentuali esatte, dei consumatori formidabili di insalate in busta, che sono una delle cose sulle quali si impegna una cifra pazzesca del proprio budget. Noi nel libro, per esempio, scriviamo, insegniamo a farsi l'insalata in busta in casa. Basta semplicemente acquistarne di fresca, meglio se nei mercati di prossimità, vale a dire quei mercati in cui arrivino merci che non superino i 50-100 km di distanza dal luogo della produzione. Questo permette di assicurarsi delle insalate freschissime che, tagliate, asciugate e conservate in un buon contenitore sotto pressione, durano almeno 4-5 giorni. Assolutamente inalterate in tutte le qualità. Questa è una delle 10 regole d'oro del carrello low cost, esatto, Rossana. Sì, e le altre più interessanti, più di interesse appunto per i nostri consumatori, consumatori, per quelli che ci ascoltano, quali sono? Ma io parto dall'esperienza personale. Per me una delle sorprese è l'acquisto attraverso diretto dai produttori. Si può effettuare in vari modi, attraverso i GAS, i gruppi di acquisto solidale, di cui sicuramente voi avrete parlato, oppure per esempio adottando un orto. Si può scegliere un produttore, adottare un orto, costruire il proprio orto ideale, quello necessario al fabbisogno di una famiglia, che può andare dal single alla persona da 4 in più. Ci sono, noi abbiamo degli indirizzi, si sceglie un paniere che viene recapitato a domicilio, quindi interrompendo anche lo spreco di denaro, di tempo che uno dedica a se stesso. Esatto, comunque il tempo è denaro, il refuso ci stava. E questa per esempio è una cosa che anche è tutta nel libro, quella di risparmiare tempo per recuperarlo per sé, no? È un'altra parte del low cost. Adottare l'orto, ma anche le pecore. L'orto, noi anche di quello ci siamo occupati a Salvadoraio, ho visto che voi l'avete preso nel libro. E persino le mucche. Le mucche, si possono adottare mucche e andare a ritirare tutti i propri latticini su in Trentino, per esempio. Allora, mi rimane un minuto prima di chiudere questo secondo blocco. Io voglio sapere che cosa fa Andrea Baracco, vicepresidente di Low Cost, quando va al supermercato con la famiglia. Quando vado al supermercato con la famiglia, sicuramente cerco di stare molto attento alle etichette. Nel mio passato io ho lavorato anche per società del largo consumo, quindi il discorso che faceva precedentemente Rosana Lacala sul discorso di stare attento al prezzo al chilo o al litro, a seconda ovviamente del tipo di merceologia, è un'altra delle caratteristiche che, diciamo, mi vede in qualche modo attento. E quindi sicuramente c'è un'attenzione anche sul discorso di sfruttare non soltanto il supermercato, ma anche il mercato, perché non dimentichiamoci che comunque l'Italia, ci sono molti mercati rionali dove probabilmente arrivano proprio quei prodotti di prossimità a cui facevano cenno prima, e quindi si può tranquillamente sfruttare. Io mi ricordo questo. Che tra il 2008 e il 2009, quando l'inflazione era schizzata al 4%, poi siamo ridiscesi, adesso stiamo ritornando di nuovo a rivedere una fiammatina, sembrava che il farmer market fosse in quel momento la panacea di tutti i mali, era solo lì, come dire, concentrata l'attenzione di tutti, sembrava l'unica soluzione per poter alleggerire il carrello della spesa. Poi già ce ne siamo dimenticati di nuovo di andare a comprare la frutta e la verdura fresca dal contadino. Chissà che adesso non ci si possa ritornare di nuovo su questi discorsi. Ci siamo dedicati alle letture, suggerendovi, se vi incuriosisce il fenomeno del low cost italiano, di leggere Italia Low Cost di Filippo Astone e Rossana Lacala, Viaggio in un paese che tenta di resistere alla crisi, storie, segreti e indirizzi di chi ce la fa, edito da Liberti Editori. Ricordiamo anche il costo, perché non fa male, 19 euro, consegnato appunto alle librerie da pochissime settimane. Il prezzo. Il prezzo, non il costo. Giustamente, 19 euro è un low cost, è un low price. Low price mica tanto, 19. Comunque, insomma, devo dire che sono quasi 500 pagine di lavoro, e i due autori hanno impiegato non poco per mettere insieme storie, cifre che ci danno un po' l'idea di quello che è il fenomeno in Italia. Che lo faceva per noi in uno scantinato. È così che si fa il low cost. Filippo, senti, no, piuttosto, abbiamo parlato prima dei settori che sono stati, abbiamo usato questo termine, sconquassati dall'arrivo dei low cost in Italia, ma forse il low cost ha fatto molto di più nel nostro paese di quanto non abbiano fatto ogni tentativo di liberalizzazione nel nostro paese, no? Perché questo va anche riconosciuto. Ripartendo per esempio dal caso più importante, più imponente, che è quello dell'arrivo di Ikea nel nostro paese, in un paese che faceva dell'arredamento anche uno dei suoi, come dire, settori economici fiore all'occhiello. Molte aziende sono state sicuramente in difficoltà, le più intelligenti però sono riuscite a trarre vantaggio anche dall'arrivo di questo mostro del nord Europa. Sì. Avvicinati un pochino al microfono. Intanto bisogna fare alcuni distinguo. Una cosa mi premevo a dirla a proposito di Ikea. Uno pensa che Ikea è la roba dozzinale, il messo il mobiliere sotto casa, c'è la qualità. In realtà i materiali che usa Ikea per fare i mobili sono dei trucciolati o degli scarti del legno riconvertiti che vengono pressati. Poi sopra ci mettono un foglio lamellare o di legno oppure di cartone dotato di una certa resistenza. Allora, uno pensa che il mobiliere sotto casa che ti propone magari il faggio o il noce ti proponga un piano di noce, ma non è così. Il mobiliere sotto casa ti dà sempre il compensato pressato, il trucciolato pressato, e sopra c'è una lamina di noce che è di pochissimi millimetri. Non è tutto noce, perché il mobile di Ikea che costa 500 euro e che ha sopra o un legno generico o il cartone è alternativo a quello che ne costa 1.500 e che ha la lamina sottile, impercettibile di noce, ma sempre dentro c'è il trucciolato pressato. Se vuoi un mobile tutto in noce, lo paghi 7-8 mila euro e allora devi andare nell'altissimo di gamma che ti garantisce che è interamente di noce. Fatta questa premessa, è vero che Ikea ha spazzato via molti mobilieri, però ha anche cambiato il concetto di arredamento in Italia, nel senso che ai tempi di mia nonna o di mia madre la camera da letto si riceveva in regalo dai genitori ed era l'istituzione. Invece con Ikea l'arredare è diventato un po' come il vestire, una cosa che può cambiare nel tempo, che si possono cambiare le funzioni d'uso delle stanze nel tempo e che hanno un continuo rinnovamento. In questo senso ha dato anche un maggiore impulso, cambiando il concetto di abitare, all'industria del mobile. Maggiore impulso del quale poi ha goduto l'Ikea stessa e quelli come lei, però così è stato. Io ricordo, mia madre era già sposata da 20 anni e mia nonna ancora aveva la sua cameretta di quando lei era ragazza intatta. Oggi se uno si sposa e se ne va, pigliano i mobili Ikea e fanno lo studio e fanno facilmente un'altra cosa in quella stanza. Quindi è cambiato il concetto. Comunque il mostro Ikea cresce moltissimo. Parliamo di tassi di crescita che arrivano al 20% nel nostro paese all'anno. L'Italia è il terzo paese e ha dato da mangiare a molti che sono diventati fornitori. Noi raccontiamo nel libro il caso di Saviola, che è un fornitore di Ikea e che è cresciuto grazie a questo. Il vero peccato è che essendo il mobile uno dei punti di forza storici del Made in Italy, che questa cosa non abbiano pensato di farla i mobilieri italiani. Infatti, tra le varie storie aziendali, saltando dal mobile all'abbigliamento, noi raccontiamo la storia di OVS Industry, che è il primo tentativo di abbigliamento low cost, o meglio fast fashion, che viene fatto in Italia, che è la terra dell'abbigliamento. Noi ci siamo fatti bagnare il naso in questo senso da H&M e da Zara, che sono diventati dei colossi mondiali. Finalmente c'è un tentativo anche italiano, perché purtroppo uno dei nostri difetti nazionali è questa forma anche di snobismo. È vero, e infatti mentre ci stiamo distraendo, perché i ragazzi mi stanno dicendo quanto tempo ancora abbiamo prima di concludere, è vero, è quella spocchia un po' di cui parlavo prima, quando quella appunto spocchia si stupida per cui noi siamo i padri della pizza, eppure il più grande venditore di pizza nel mondo è americano, che fa Pizza Hut, che è schifosissima. Allora, e lo stesso vale per il cappuccino. Infatti, Rossana, la cara, sono rimasta un po' male, siccome io sono un'appassionata di fitness e di palestra, di tutto quello che emerge dall'indagine che avete fatto in questo settore, nel senso che se vado a leggere l'introduzione al capitolo 3 dell'ultima parte, salute intelligente, riprendersi il corpo con il fitness su misura, leggo nell'introduzione tariffe pesanti, finanziamenti da strozzinare, contratti capestro e personale poco preparato, quindi il low cost in questo settore ha portato tutte queste derive? No. Il low cost in questo settore ancora non ha il suo punto di forza, a parte una o due esperienze squisitamente low cost, una di queste in Emilia Romagna. La nostra era una critica a ciò che c'è, cioè il mondo del fitness, quella delle palestre, è un mondo un po' difficile da prendere. Normalmente chi si iscrive a una palestra sa che ha delle condizioni capestro abbastanza, limiti d'ingresso, impossibilità a sfuggire alla rata se per caso c'è un impedimento, non so, un impegno di studio, di lavoro, insomma in Italia le palestre, per questo noi abbiamo anche molto abbiamo preferito dare indicazioni su farsi la palestra in casa, per esempio, cosa possibile anche in 30 metri quadrati, grazie a un'azienda del low cost, Decathlon, che ha questo meraviglioso cubo, un cubo in cui c'è tutto, cioè c'è tutta l'attrezzatura per farsi del fitness in casa, magari seguiti da un coach, da un trainer a domicilio. Cosa possibile, perché abbiamo anche scoperto come costruirsi un percorso low cost con un coach su misura, come fanno Madonna, no? Come fanno i ricchi, quelli che veramente possono farlo, spendendo 20-30 euro, ma anche di meno a testa, semplicemente per esempio condividendo con un amico o con una persona che ha gli stessi due problemi il trainer, facendosela a casa, senza necessariamente ricorrere alle palestre. Abbiamo scoperto questa palestra low cost, dove però il limite è che non so, la doccia ha un tempo scarsissimo, quindi non fai a tempo a lavarti tutto e devi metterti le tue monetine, perché sennò esci con i capelli insaponati. Però insomma è il mondo che c'è delle palestre che ci ha un po' sconvolto, come prezzi, tariffe, soluzioni in capestro. No, il mondo del low cost delle palestre è ancora tutto da di là da venire e costruire. Bisogna sì, anche perché dovremmo fare qualche Andrea Baracco qualche passo avanti. Ryanair, IKEA, EasyJet, Zara, H&M. Adesso dovremmo andare a guardare anche che cosa succede in tutti gli altri settori, quali appunto, ritornando ad una domanda che ti ho fatto anche prima, rimangono inesplorati dal low cost, e il low cost è la bandiera anche della frugalità? Io più che di frugalità parlerei di neosobrietà. Questo è un po' potrebbe essere il punto di vista. Per quanto riguarda i settori merceologici, noi oggi come Assolocost rappresentiamo moltissimi settori merceologici, sicuramente rappresentiamo praticamente quasi tutto l'ambito dei servizi, rappresentiamo l'arredamento, rappresentiamo molte aree. Sicuramente, come dicevo prima, ci è rimasta fuori un aspetto che peraltro è importante nel computo della spesa e del budget degli italiani, che è quello della grande distribuzione. Siamo aperti ad esaminare, come dire, delle valutazioni e delle proposte in tal senso, e magari chissà, la prossima volta potremo raccontarti qualcosa di nuovo. Benissimo, quindi oltre ad una guida interessante, ad una lettura interessante, abbiamo inviato anche questo messaggio ai grandi marchi della grande distribuzione italiana. Io ringrazio molto Filippo Assone, Rossana Lacale, Andrea Baracco per essere stati con noi, per averci raccontato e sintetizzato il contenuto di Italia Low Cost, viaggi in un paese che tenta di resistere alla crisi. Grazie a tutti, Salvadanaio torna domani, buona giornata. We'll be right back.